Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 404, nella quale parleremo di cinema, di land grabbing, di attivisti uccisi e di allevatori pentiti. Speriamo di avervi incuriosito. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Mila ettari di terra, sono queste le dimensioni delle proprietà di una tra le maggiori imprese nel mercato dell'abbigliamento mondiale, la Benetton. Un'acquisizione, o meglio un accaparramento, del valore di 50 milioni di dollari che risale al 1991. Ma quelle terre appartenevano e appartengono al popolo Mapuche, gli indigeni che vivono in Patagonia da tempi immemorabili, ben prima dell'arrivo dei colonizzatori spagnoli. I Mapuche non possono esibire un titolo di proprietà riferito a quei terreni. I Mapuche infatti non considerano la natura un oggetto da negoziare. Sono il popolo della terra. Per questo rivendicano il diritto ad abitarla, come hanno sempre fatto. Il popolo Mapuche non ha mai smesso di lottare e di resistere, reagendo alle violenze che periodicamente vengono subite dai loro membri più attivi, spesso arrestati e imprigionati dalle autorità nazionali con l'accusa di terrorismo. Santiago Maldonado, un artigiano 28enne di Buenos Aires, si trovava in quelle terre per sostenere la lotta del popolo Mapuche ed è scomparso il 31 luglio durante la repressione di una protesta indigena da parte della gendarmeria. Il 30 settembre scorso a Milano la rete in difesa del popolo Mapuche aveva organizzato un presidio davanti al negozio Benetton di Corso Buenos Aires. Il corpo di Maldonado non era ancora stato ritrovato in quella data. Sentiamo il servizio della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. La terra non si vende, la terra non si compra, la terra non si usurpa e l'uomo non è proprietario di queste terre. Noi siamo parte della terra, che è molto diverso. Geraldine, che è cilena e fa parte della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche di Milano, e ha appena parlato qua al microfono al presidio davanti a Benetton. Geraldine, perché la scelta di Benetton? La scelta di Benetton è perché questo gruppo italiano sta occupando dal 1991 territorio Mapuche nella Patagonia argentina, e particolarmente dal 2015, due anni e mezzo fa, i compagni e compagne delle comunità Mapuche di Cusamen stanno recuperando territorio occupato e usurpato dal gruppo Benetton, e quindi da due anni e mezzo hanno un presidio, un accampamento dove loro stanno cercando di recuperare il territorio. Abbiamo anche un compagno desaparecido, scomparso, Santiago Maldonado. Da due mesi non si sa niente di lui. In questo momento la gente sta chiamando: Santiago Maldonado dove è? Il governo argentino di Macri è molto vicino all'impresario Luciano Benetton, e non solo, stanno adesso facendo anche affare nella costruzione di una ruta panamericana in Argentina, quindi sono compromessi tanti interessi, ma non è per questo che il popolo mapuche deve pagare. E anche in Cile soffre anche loro un'intromissione capitalista gigantesca, vergognosa, fatta di centrali idroelettriche, di dighe, di devastazione dei boschi. Fino a ieri manteneva 4 prigionieri politici mapuche e un sciopero della fame. Qui 115 giorni e lo Stato cileno a guardare che loro morivano. Sono con un portavoce di Contagio Antispecista. Avete deciso di sottoscrivere il documento di solidarietà al popolo mapuche. Perché? Il fatto che oggi siamo qua a parlare di Benetton e a smascherare, a mostrare il vero volto di questa multinazionale, ma le pratiche utilizzate da Benetton sono quelle utilizzate da tutte le multinazionali dal sistema capitalista. Potremmo essere qua per Benetton, potremmo essere qua contro Nestlé, McDonald's, Ferrero, sono tante, usano tutte la stessa pratica, che è quella del land grabbing, appropriazione di terre strappate appunto ai popoli indigeni del luogo, a cui vengono lasciate solo due scelte: quella di essere schiavizzati a loro volta nelle terre che un tempo prima abitavano liberamente da centinaia di anni, oppure abbandonarle, terre appunto che sono state convertite in allevamenti, dove proviene il 10% della produzione annua della lana. Si chiama appunto lotta per la liberazione animale, in quanto siamo tutti terrestri, come dice uno striscione con cui abbiamo contribuito oggi al presidio, tutti abitanti di un pianeta che è il primo organismo, il primo essere vivente ad essere sfruttato. Il corpo di Maldonado è stato trovato a metà ottobre nel fiume Chubut, intrecciato con rami di alberi a circa 300 metri dal posto in cui era stato visto vivo per l'ultima volta. Dedichiamo questa puntata alle pecore derubate sistematicamente della loro pelliccia, a Santiago Maldonado, combattente per la libertà, e al popolo mapuche, oppresso e sfrattato a scopo di profitto. Sunset superstars, girls in cages playing their guitars, but how can I leave? I just fall in the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves they never break, they build and build until you don't have no escape, but how can I leave? I just fall. How can anybody have you and lose you? Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cry for me, Argentina, cantava Evita nel musical ispirato alla sua vita. Già, ma come fare a non piangere sbucciando e tagliando le cipolle per preparare uno dei piatti tipici della cucina argentina? Gli ingredienti per 4 persone per le empanadas sono: per la pasta 125 ml di acqua, 250 g di farina tipo 0, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, mentre per il ripieno 50 g di granulare di soia, 2 cipolle bianche, un cucchiaio di uvetta, un cucchiaio di olive verdi denocciolate, un peperoncino fresco, paprika, semi di cumino, un pizzico di curcuma, olio per friggere. Iniziate preparando la pasta. Lavorate la farina assieme all'acqua tiepida, il sale e l'olio fino ad ottenere un impasto compatto e liscio. Avvolgete la pasta con la pellicola e fatelo riposare per circa 30 minuti. Sbucciate e tritate le cipolle e fatele scottare con poca acqua. E quando questa sarà evaporata, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e lasciate rosolare per qualche minuto. Quindi unite il granulare di soia e fate cuocere ancora qualche minuto. Aggiungete un bicchiere di acqua o brodo vegetale e fate ritirare. A questo punto unite le spezie, indicativamente mezzo cucchiaino di cumino e paprika ed un peperoncino tagliato a pezzetti, ma trovate la giusta proporzione per il vostro palato. Aggiustate di sale e lasciate cuocere per una decina di minuti a fuoco lento. Infine aggiungete l'uvetta, che avrete prima lasciato in ammollo, e le olive tagliate a rondelle e fate andare ancora per qualche minuto, quindi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. La pasta in una sfoglia di circa 2 mm e ricavate dei dischi di 10 cm di diametro. Farcite ogni disco con un cucchiaino di ripieno, inumidite i bordi con poca acqua, piegate a metà e premete per sigillare le estremità facendo anche delle piccole pieghe sui lati. Friggete in olio caldo per qualche minuto o, se preferite un piatto più leggero, disponeteli su carta forno spennellata di olio. Sciogliete un cucchiaino di curcuma in polvere con un cucchiaino di acqua e spennellate la superficie delle empanadas, quindi infornate a 180 gradi per 20 minuti. Servite ben caldi. Thank you. regione toscana torna all'attacco degli animali selvatici. Dopo la legge ammazza ungulati, ora tocca ai lupi. L'assessore all'agricoltura e alla caccia, Marco Remaschi, ha chiesto al governo di autorizzare l'uccisione di esemplari di lupo fino al 5% della popolazione stimata. E si parla di circa 600 esemplari presenti, stimati, anche se manca un vero censimento. Il lupo è una specie protetta, ma la regione toscana ritiene che i lupi in Toscana siano troppi e che vadano assecondate le richieste degli allevatori, esasperati, dice l'assessore, per le predazioni delle greggi. 1500 sono gli attacchi denunciati, sostiene Remaschi. L'assessore sembra ritenere che l'uccisione di 30 lupi, il 5% dei 600 stimati, possa far cessare le predazioni delle greggi incustodite, ma non spiega in che modo ritenga che tale miracolo possa verificarsi. Il Ministero dell'Ambiente nei mesi scorsi aveva preparato un nuovo piano lupo, ma la sua approvazione era stata bloccata da alcune regioni proprio perché includeva la misura ora invocata dalla regione toscana, ovvero la possibilità, finora esclusa, di uccidere fino al 5% degli animali censiti. La giunta, guidata da Enrico Rossi, in quel frangente aveva guidato il fronte oltranzista, pronto ad assecondare la volontà del ministro Gianluca Galletti di porre fine al pluridecennale divieto di caccia ai lupi, un divieto peraltro ripetutamente violato nelle campagne e nelle montagne toscane. È delle settimane scorse la macabra esibizione di due lupi impiccati a un cartello stradale in Maremma. Se gli allevatori toscani odiano i lupi, sicuramente non è così per Bob Comis, un allevatore pentito, protagonista del documentario The Last Pig, l'ultimo maiale. Menzione d'onore quest'anno alla 20ª edizione del Festival Cinema Ambiente di Torino e attualmente in concorso in numerosi film festival di tutto il mondo. Il film documenta la vita di un allevatore di maiali durante il suo ultimo anno di attività. Dopo 10 anni assieme a questi animali, infatti, Bob ha sviluppato una tale familiarità con loro che non riesce più a portarli al mattatoio. Un cambiamento coraggioso, interiore ma anche materiale, dal momento che Comis, rifiutando la morte dei suoi animali, ha dovuto reinventare, riprogettare la sua vita, la sua attività lavorativa. Due parole merita anche la regista di questo documentario, Alison Argo, ex attrice di successo nei teatri di Broadway e in televisione, che un giorno incontrò un gorilla, Ivan, prigioniero di un centro commerciale a Tacoma, nello stato di Washington. La Argo apprende che per 30 anni il gorilla aveva vissuto in isolamento e decide così di mettersi a scrivere, produrre e dirigere il suo primo film, The Urban Gorilla, nel 1992. Dopo questo film, la storia di Ivan avrà una svolta, il gorilla verrà portato a vivere nello zoo di Atlanta, dove, quantomeno, potrà frequentare altri suoi consimili. L'associazione Esseri Animali ha organizzato una serie di proiezioni del documentario The Last Pig alla presenza della regista e del protagonista. Nella tappa romana del tour, la nostra Francesca De Matteis ha intervistato il protagonista, Bob Comis. Sentiamo l'intervista. È È stato difficile fare la scelta che hai fatto? Ci hai pensato tanto? O è stata una cosa repentina? La scelta è stata molto facile e molto veloce, nel senso che un giorno ho avuto un'esperienza quasi mistica in cui sostanzialmente non sentiva più alcuna separazione tra sé e i maiali. Era come se lui fosse i maiali fossero in lui, e in quel giorno lui decise di abbandonare l'attività. Dopodiché però sfortunatamente aveva in quel momento 250 maiali in allevamento, e quindi in realtà il processo di transizione è durato 10 mesi, perché lui non ha più acquistato nuovi maiali da allevare. Durante i 10 anni in cui ha svolto l'attività di allevatore ha avuto dubbi e ha avuto in qualche modo pensieri su quello che stava facendo. Non è che quel giorno ha avuto un'esperienza mistica che è venuta fuori dal nulla, ma quel giorno in qualche modo è arrivato a completamento un percorso che era iniziato molto tempo prima. Gli ultimi 200 maiali che hai dovuto portare al macello, come hai vissuto quel momento? E non c'erano alternative possibili? After I made the decision to quit, it was I motivi sono sostanzialmente due. Un primo motivo decisamente unicamente economico: sarebbe stato per me impossibile continuare a tenere 250 maiali senza avere un ricavato di vendita, perché avevo fatto debiti per comprarli, e quindi questo rendeva impossibile smettere di colpo l'attività tenendoli. E al tempo stesso e c'è una componente molto forte anche psicologica, come lui racconta nel film. Lui è perseguitato in fondo dai fantasmi dei maiali, dalla memoria, dai fantasmi di quei maiali che lui ha portato al macello, e sarebbe stata una sorta di autopunizione troppo dura continuare a convivere anche solo con alcuni di essi che tutti i giorni gli avrebbero ricordato quelli che invece non ci sono più. Bob, nel documentario emerge chiaramente la questione della carne felice. È un approccio che hai voluto sottolineare particolarmente e volutamente nel film, o è casuale? I think that's true. È un concetto appunto molto importante, non è casuale. Io penso che il documentario sia molto tempestivo in questo, arrivi nel momento giusto, e non è un caso che io parli di carne felice nel film, nel documentario, perché io volevo proprio parlare, trattare di questo argomento dal punto di vista di un allevatore di carne felice, perché dice: nel mio allevamento i maiali erano sicuramente felici fino al giorno in cui però li portavo al macello. Possiamo dire che non è un documentario per animalisti? Si può dire? Non solo, quantomeno. Sì, decisamente sì, il documentario non è rivolto solo agli animalisti, è un documentario nelle intenzioni che vuole arrivare a un pubblico più ampio, e come ha notato chi lo ha visto, non è un documentario che dice quello che bisogna fare, non è un documentario quindi che forza le persone, è un documentario che pone delle questioni, che mostra delle cose e che induce a fare delle riflessioni, e queste riflessioni, a maggior ragione, si cerca di indurre a fare queste riflessioni persone che sono in questo momento lontane da certi concetti e da certi ragionamenti. Un'ultima cosa che ti vorrei chiedere, Bob, è come ti senti? Sì, non mi sono sentito solo, dice. Innanzitutto anche le persone che accanto a me nella mia comunità locale non erano d'accordo con la mia decisione, però ciò nonostante non mi hanno aggredito, non hanno fatto ostruzionismo, non mi hanno isolato, quindi hanno in qualche modo non appoggiato ma condiviso e accettato, diciamo così, la mia scelta, il che penso sia già un buon risultato. E al tempo stesso ha detto: ovviamente la comunità degli animalisti ha totalmente abbracciato la mia scelta, la mia decisione, mi ha molto supportato, e quindi per dirle una parola sto molto bene. Ringraziamo Sergio Marchese dell'Associazione Esseri Animali per la collaborazione e la traduzione dall'inglese all'italiano. In my head, I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors, Sunday morning is every day for all I care. But I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. Yeah, yeah. I'm so lonely. That's okay, I shaved my head, and I'm not sad. And just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Lo scorso 18 ottobre si è svolta la premiazione del Wild Photographer of the Year, un prestigioso concorso fotografico organizzato dal Natural History Museum di Londra. Quest'anno sono arrivati circa 50.000 scatti e tra questi le immagini più belle e drammatiche che la natura selvaggia possa offrire. Dal fascino degli oceani, con la medusa luminosa del francese Anthony Berberian, al gorilla del Parco Nazionale Odzala nella Repubblica del Congo, immortalato da Daniel Nelson, che a soli 17 anni si è aggiudicato il premio come fotografo più giovane. Le immagini spesso riflettono la condizione critica in cui versa l'ambiente in questa nostra epoca. In questo filone rientra lo scatto vincitore dell'edizione 2017 che ha immortalato un rinoceronte nero ucciso e mutilato del suo prezioso corno. Una scena dolorosa e straziante che il fotografo Ben Stirton ha immortalato in una riserva di caccia del Sudafrica. Gli assassini erano probabilmente membri della comunità locale, sono entrati nella riserva di notte e hanno sparato all'animale con un silenziatore. Poi hanno tagliato i due corni e sono fuggiti, prima di essere scoperti dalla pattuglia di guardia. Il bottino sarebbe poi stato affidato a un intermediario e venduto in Mozambico o in Cina. E siamo in chiusura, ricordiamo tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e che sono Bob Comis, allevatore pentito protagonista del film The Last Pig, Sergio Marchese dell'associazione Esseri Animali, Geraldine della Rete Internazionale per il Popolo Mapuche, il portavoce di Contagio Antispecista e poi redattori e redattrici della trasmissione Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e chi vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, cioè Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata 405 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.